Abashidze, il piccolo Saddam. L'escalation è stata breve, neanche 6 mesi. Tanto tempo è passato da quando Mikhail Saakashvili ha preso il potere in Georgia con la rivoluzione delle rose, in cui, per impeto pacifico e popolare, la Georgia si è sbarazzata del vecchio Shevardnadze. 6 mesi che Saakashvili ha usato per esercitare una pressione costante sul capo Ajaro Abashidze, costringendolo infine, la settimana scorsa, ad abbandonare il campo e a ritirarsi nell'asilo politico offerto dalla Russia di Putin. Sotto Shevardnadze era durato 12 anni, regnando con polso di ferro, nepotismo, corruzione e amicizie mafiose la Giaria, regione sud-ovest della Georgia, confinante con la Turchia e che si affaccia sul Mar Nero con un porto, quello della capitale Batumi, che di questo conflitto politico era il principale oggetto del contendere. Abashidze in tutti questi anni ha minacciato Shevardnadze prima e Saakashvili poi di rendere indipendente la regione con l'aiuto russo e delle basi militari che, malgrado ogni accordo, la Russia non si è mai decisa a sbaraccare. Quello che però per un'indipendenza è sempre mancato è stato il sostegno popolare ed è per questo che Abashidze si è sempre fermato sul rubicone di un'autonomia amministrativa rispetto a Tbilisi, la capitale georgiana, e questo malgrado il fatto che con l'aiuto russo fosse riuscito a costruire un minaccioso contingente di forze armate al proprio servizio. Fin dall'inizio era chiaro che la popolazione ajara sperava di liberarsi dal giogo del suo piccolo Saddam, come lo ha definito all'indomani della vittoria Saakashvili stesso. Eppure, solo un paio di mesi fa, Saakashvili era stato bloccato alla frontiera dai bravi di Abashidze e costretto a fare marcia indietro, mentre il giorno dopo il piccolo Saddam correva a Mosca a nascondersi tra le sottane di mamma Russia. Ma proprio in quel momento il Cremlino sembrò timido nel manifestare solidarietà al proprio vassallo. Nessun comunicato ufficiale fu rilasciato a seguito dell'incontro, eloquente silenzio che mostrò a Saakashvili una certa disponibilità di Putin a trattare. Quali fossero i margini e le condizioni della trattativa si capì ai primi di maggio, quando Abashidze, preso dal panico, ha fatto saltare i principali ponti di collegamento con la Georgia. Avrebbe perso il potere, ma gli veniva concesso l'onore delle armi. Il ministro degli esteri russo Ivanov commentò: «I ponti si ricostruiscono, le persone non si resuscitano», invitando Saakashvili a non perdere la testa. Infatti, di lì a pochi giorni Ivanov, come per le ultime fasi decisive della rivoluzione georgiana, arriva a Batumi. Saakashvili vuole evitare un bagno di sangue e chiede alla Russia di concedere asilo politico ad Abashidze, che lo stesso giorno se ne vola a Mosca sull'aereo di Ivanov, dopo aver ordinato il rompete le righe a quel che restava dei suoi. Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.